Radio 24 Reportage. Scuola, voglia di ripartire al liceo Volta di Milano, di Maria Piera Ceci. Finalmente si riparte, il 14 in molte regioni, dopo le elezioni nelle altre. Fra igienizzanti, mascherine, scotch per terra a segnare i percorsi, ma comunque la scuola riparte. Ogni preside ha adattato le indicazioni sanitarie al contesto e ai numeri della propria scuola. C'è chi ha comprato i banchi con le rotelle per garantire il distanziamento, chi ha istituito i doppi turni, chi ha diviso le classi, metà a casa con la didattica a distanza, metà in aula. Chi ha accorciato il modulo orario comprimendo dunque la giornata. Insomma, spazio alla creatività per far sì che comunque tutti gli studenti possano in qualche modo rimettere piede in classe. 2020, Gucci è il dio più pregato, pregiudicato, lancio la pietra, nascondo il reato, gli organi miei contro quelli di Stato. Situazioni così diverse da scuola a scuola che è difficile raccontarle tutte, allora ne abbiamo scelta una a Milano, il liceo scientifico Volta. Lui, il dirigente scolastico Domenico Squillace, era diventato una specie di star con decine di richieste di interviste perfino dal Giappone, grazie ad una commovente lettera indirizzata ai suoi studenti durante il lockdown. Ora, un po' scherzando ma neanche troppo, ai suoi ragazzi manda un nuovo messaggio: nervi saldi, sono il più vecchio della scuola, quindi quello che rischia di più, la scuola deve riaprire. E ci ha anche spiegato come riapre il Volta. Come vengono a scuola? Allora, vengono a scuola con... questa è una scuola con 1224 alunni quest'anno. Sono tanti, tantissimi. Ci siamo posti due problemi. Due tipi differenti di turnazione. Tutte le classi, mediamente una volta alla settimana, stanno a casa per un giorno. La classe intera e fa didattica a distanza. Gli altri 900 alunni che entrano a scuola, ne lasciamo circa 300 a casa, vanno nelle aule. Per cui ci saranno alcune classi fortunate che entreranno, hanno delle aule, avranno delle aule in cui ci stanno tutti, e sono le classi del biennio, perché quelli di prima non l'abbiamo mai visto e non vanno a scuola da febbraio, hanno fatto mezza terza media, quelli di seconda hanno fatto mezza prima classe, gli altri, quelli più grandi, terza, quarta e quinta, si devono accontentare del resto, e quindi ogni giorno a turno quattro studenti staranno a casa. Assenze programmate. Diciamo assenze programmate, questi non faremo didattica a distanza, la didattica a distanza la facciamo quando è tutta la classe assente, queste ragazze avranno dei compiti da svolgere in quel giorno che gli capita ogni 15, 16, 17 giorni. Mi fa vedere un'aula? Vieni con me a farmi vedere un'aula? Allora, quest'aula c'ha 4, 8, 12, 16, 20 posti. Noi l'indicazione di un metro di distanza l'abbiamo, come dire, per maggior tutela allungata a 1,20 m. Tra l'altro banchi che sembrano nuovissimi. No, non sono nuovissimi, sono i nostri banchi, noi abbiamo da sempre i banchi monoposto, l'abbiamo sempre avuto, non vedo un banco a due posti da quando ero alunno alle scuole medie personalmente, quindi qualche annetto fa. Quindi non sono i banchi di Arcuri per intendere? No, questi arriveranno anche quelli, perché ogni anno ne compriamo di nuovo, anche quest'anno ne sono arrivati un'ottantina che avevamo comprato in primavera. Non vedo ancora disinfettanti, però insomma arriverà. Cioè, no, come non lo vedo? Eccolo qua. Questo l'abbiamo comprato noi, l'Università Bicocca ci ha regalato un paio di centinaia di litri di disinfettante prodotto da loro. Noi abbiamo comprato degli simpatici spruzzini da giardinaggio. Ogni insegnante pulirà la cattedra alla fine della sua ora, perché arriva la tastiera del computer. Gli alunni puliranno il banco a fine giornata, faranno questa operazione qua, molto velocemente. E invece di far fare tutto agli ATA? Se io devo... di igienizzare il banco quando finisce l'ora di italiano e prima che inizi l'ora di matematica, succede che i miei 8 bidelli devono fare 50 aule, si blocca tutto, l'insegnante passerà a mano un goccio di disinfettante lì sopra e sulla tastiera del computer. Perché in ogni stanza c'è un computer, vedo, e una LIM? Sì, quello si danni. Mi fa vedere i corridoi invece, come li avete organizzati, perché sono piuttosto stretti. Come si farà a gestire il flusso? Allora, questa non nasce come scuola. Nasce negli anni 30 questo edificio con altri scopi. E metteremo tutti i cartelli, sensi unici, andata, entrato, si entrerà da una parte, si uscirà dall'altra. Ci saranno dei percorsi per l'entrata e dei percorsi per l'uscita. Chiaramente in questo corridoio bisognerà andare nei due sensi e non è possibile fare altrimenti, perché non c'è un'uscita in quella direzione. E invece l'ingresso principale? L'ingresso avviene da due diverse porte. Questi 900 vengono divisi in due, da due ingressi diversi, quindi 4,50 e 4,50. Gli ingressi si avvengono in due turni, 8 e un quarto e 9.05, quindi 225 e 225. Quindi si tratterà di gestire 225 ragazze per ingresso, che è una cosa fattibile. L'intervallo avviene su due turni differenti. Insomma, si è fatto il possibile, ma no, quanto è preoccupato per questa benedetta data del 14? Io sono ragionevolmente preoccupato, ma ragionevolmente ottimista, nel senso che è una cosa con cui dovremo convivere. Se accadrà, come sono certo che accadrà, che ci saranno casi di infezione nelle scuole, magari proprio in questa, perché la scuola italiana muove 8 milioni di persone. 8 milioni di persone sono il 12% della popolazione. Vuole che questo 12% sia immune totalmente? Non è possibile. Ci saranno dei casi, ce ne saranno diversi di casi. Con la santa pazienza ci toccherà chiudere alcuni giorni e noi chiuderemo alcuni giorni. Che cosa dice ai ragazzi che stanno finalmente tornando a scuola? Se ne vedono nell'aula accanto, stanno facendo i corsi di recupero. Beh, sì, è stato bello rivederli, siamo contenti, perché la scuola senza studenti è una carcassa vuota, è assoluta, abbastanza inutile. E io non sono stato un fanatico della didattica a distanza, la didattica si fa in presenza. Ai ragazzi dico: armatevi di pazienza, un po' di pazienza, ricominciamo con entusiasmo, con voglia di fare, state alle regole dentro e fuori dalla scuola, perché voi mi rispettate le regole nella scuola e poi fuori fate l'ira di Dio, assolutamente inutile, diciamo. E ai genitori? Genitori, di avere un po' di pazienza, un po' di fiducia, un po' di coraggio, di non lasciarsi prendere dal panico, che noi siamo, cerchiamo di gestirla. Di pazienza si stanno davvero armando. Siamo entrati nella futura classe quarta H, impegnata nel corso di recupero con l'insegnante di inglese Paola Frediani, che non ci nasconde la sua emozione nel ritrovare i ragazzi distanziati con le mascherine, ma finalmente seduti al banco. Loro lo sanno, io entro e bellissimo, non vedevo l'ora di vederli. Cioè, devo dire, rivederli ho detto, ah, meno male, allora la scuola ha un senso. Com'è stato tornare qui a scuola, nell'aula, sul banco? Ah, sicuramente qualcosa di diverso, ma un'emozione rivedere i miei compagni. Nella didattica a distanza quello che non ci ha permesso era lo stare insieme fisicamente. Molto più bello, secondo me, ritornare in classe rispetto ovviamente alla didattica a distanza, però... Vabbè, è stato appunto necessario. E com'è adesso stare qui in classe, uno per ogni coppia di banchi, la mascherina obbligatoria, com'è? Triste, perché mi manca la mia compagna di banco e soprattutto perché con le mascherine non ci si vede, quindi è un po' deprimente. Non è facilissimo restare 6 ore con una mascherina comunque. Più che altro bisogna stare molto seduti al proprio posto, non possiamo andare in giro, possiamo andare in bagno solo in certi momenti, non c'è l'intervallo tutti insieme, le macchinette, le altre persone delle altre classi. Però insomma, rispetto all'essere chiusi in casa, sempre meglio. Tu ridevi, perché ridevi? La realtà della didattica a distanza è stata un pochino più sofferta, secondo me. Non si poteva avere gli amici, meglio stare sul banco. Ma com'è adesso tornare in classe, mi spiegava il preside, con la doppia turnazione? Ma è ragionata, è studiata bene, anche sugli spazi che abbiamo. Ci sono certi licei che invece hanno affrontato in modo completamente diverso. Questa è studiata bene per avere il maggior numero di persone in classe. Parliamo sempre di didattica a distanza. In realtà quello di cui dobbiamo parlare è un'altra cosa, che si chiama didattica digitale integrata. La didattica a distanza è quella che abbiamo fatto, diciamo, nell'emergenza più assoluta, con qualcheduno che se la cavava e qualcheduno che era totalmente digiuno. Benissimo, siamo sopravvissuti. In realtà il Ministero ha chiarito che si deve lavorare in modo tale che quegli allievi che, come dicevamo prima, saranno a distanza, quegli allievi dovranno fare dell'altro. Allora, questa è la vera sfida. Insomma, che la scuola faccia davvero quel passo in più verso la scuola anche digitale, che non è portare la lezione frontale davanti a una telecamera, perché altrimenti... Questa logica trasmissiva. Io ho 60 anni, andavo a scuola e la logica era trasmissiva. È possibile che in 40 anni è cambiato il mondo intorno a noi, ma la scuola è rimasta identica quando io andavo al Carducci negli anni 70. Una scuola dunque che da questa pandemia deve cogliere l'occasione per rinnovarsi, traghettare su nuovi metodi didattici. Nel corso di questo anno scolastico vi racconteremo se sarà stata in grado di raccogliere la sfida. Intanto, altra sfida, quella dei genitori dei più piccoli, i bambini di nidi e materne tornati lunedì anche a Milano, fra moduli infiniti da compilare, tempi ridotti e insegnanti non tutti al loro posto. Valentina Garofalo, rappresentante della sezione del Fini della scuola dell'infanzia di via Gramsci a Cassina dei Pecchi, alle porte di Milano. A Cassina dei Pecchi noi genitori abbiamo saputo che lunedì sarebbe stata presente una sola insegnante per 24 bambini, quindi abbiamo deciso di protestare non mandandoli a scuola. Da martedì il problema è stato tamponato mandando maestre diverse ogni giorno. Inoltre i genitori non possono entrare dentro l'edificio, quindi i bimbi di 4 e 5 anni devono essere salutati all'ingresso ed entrare da soli. E nonostante le linee guida per i bimbi di 3 anni raccomandino un graduale inserimento con la presenza di un genitore, nel nostro paese saranno concessi 40 minuti il primo giorno e poi dal secondo giorno rimarranno direttamente senza genitori. È andata meglio altrove. Queste le voci raccolte fuori dalla scuola dell'infanzia San Mamete, sempre a Milano. Devo dire che lui è felicissimo di essere tornato a scuola, anche se con delle limitazioni, però molto meglio con i compagni, stando attenti che a casa da soli. Bellissimo. Tutta la vita ci hanno mandato tutti i fogli, abbiamo letto tutto, però comunque voglio vedere perché io ne ho due, capito? C'è tanta confusione, non sappiamo in realtà nemmeno come gestirci, anche per gli orari, per tutto è abbastanza difficile quest'anno. Il bambino è contento? Sì, anche se c'è comunque la tensione del ritorno, ecco, del finalmente si torna, ma chissà che succede. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.